scavava, vanghe con zappe spaccavano il suono, il corvo spiccava, nero il suo volo. Pareva che il vecchio fosse morto là dentro, dopo quel colpo sparato. Piangendo, copriva quel corpo.